Don Gillo! Che c'è? Don Gillo! Che c'è? Si chiama Don Cirillo, il prete del paese, è biondo, alto, snello e beve sangiovese. Si alza puntualmente al canto del galletto e suora Gelsomina gli porta il caffè a letto. È un prete molto allegro e suona il mandolino. Ragazze e ragazzuoli, stasera gran festino! Cirillo, Cirillo, con l'occhio del mandrillo, non devi ronzare sul collo di Jeanette. Cirillo, Cirillo, col naso fatto spillo, che nasa, con tutte a tête à tête. Don Cirillo! Che c'è? Don Cirillo! Che c'è? All'alba lui si ciuccia tre uova di gallina e alle otto dice la messa mattutina. Ma prima in sacrestia, nascosto dalla grata, assolvi i peccatori che hanno fatto la frittata. È sempre molto duro nel dar la penitenza, un pater ave gloria e tutti in astinenza. Cirillo, Cirillo, con l'occhio del mandrillo, non devi ronzare sul collo di Jeanette. Cirillo, Cirillo, col naso fatto spillo, che nasa, con tutte a tête à tête. Don Cirillo! Che c'è? Don Cirillo! Che c'è? Scassata e senza canna, lui ha la bicicletta e bagna i parrocchiani con l'acqua benedetta. Da Jack e Mr. Hyde si mette il doppio petto, scannando giù in balera le donne del suo ghetto. È sempre corteggiato, amato e venerato, lui balla buchi, il tango, il samba e il cia cia cia. Cirillo, Cirillo, non fare più il mandrillo, ben presto da prete sprezzato tu sarai. Cirillo, Cirillo, lo so che sei fraterno, pertanto e fratanto ti metti in mezzo ai guai. Io sono Cirillo, il prete cappellano che assolve i peccatori da Roma e da Milano. Io sono Cirillo, il prete fracassone, e per la soluzione ti do in testa sto bastone.